Scarlatti al laterino, l'oboe, i corni, le violette avranno ben a fare. Il violoncello, i violini, il contrabbasso a suo tempo faranno maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto, e seguir voi dovrete quel che dirò. Questo è il passo degli violini, lai, lai, lai, lai. Cosa ha fatto quel mio caro Pio, Pio, Pio, Pio? Si incomincia ancora il passo. Maledetto contrabbasso, maledetto, maledetto. Cosa diavol qui si fa? Cosa diavol qui si fa? Questo è il passo dei violini, lai, lai, lai, lai. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oh, vi prego, debatate, imparate a ben contar, altrimenti non si va, altrimenti non si va. Questo è il passo dei violini, lai, lai, lai, lai. Le violette non ancora, zitto il flauto non ancora, ma che diavol qui si fa? Balletto contrabbasso, cosa di diavol qui si fa? Cosa di diavol qui si fa? Qui si manca d'attenzione, qui si manca d'attenzione. No, così, così non va. Vi scongiuro in ginocchione, vi scongiuro in ginocchione. Badate in carità, in carità. Senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che non sono qui per farvi il buffone. Questo è il passo dei violini, la la la la. Oh, bravissimi, va bene, questo è quel delle violette, la, la, la, la. La, la, la. Bravi assai, o benedette, l'obo è così farà la la la la la la la la la la la la. Bio, bio, bio, bio. Bio, bio, bio, bio, bio, bio, bio. Molto bene in verità, assieme la la la la la la la la la la la la la la la la. Blabberi blabberi blabberi bla. Son contento, vanno bene. Ora desunitamente vi sentiamo come andrà. Vi sentiamo come andrà. Bravi! Bene! Bravi assai! Bravi, bravi, bravi assai! Queste note a punta d'arco. Qui staccate, qui legate, qui staccate, qui legate, l'obo è solo. Le violette, l'auto solo, resto i corni, qui fortissimo, così, così. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Queste note a punta d'arco. Le violine e le violette con i corni. Or sentiamo il flauto solo, o due corni con il flauto. Le violini, bravi flauti soli, bene le violette, bravi oboe solo, bene oboe flauto, bravi presto i corni, bravi e bene, bravi e bene, bravi assai, bravi assai, bravi assai. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carmonico fracasso, o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Thank you.